Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, ci lasciamo, immagino senza grandi rimpianti alle spalle, un anno tormentato nel quale per molti di noi, almeno i libri, sono stati una grande risorsa. E allora vi propongo stasera un libro sul mondo dei libri, scritto da uno dei protagonisti dell'editoria italiana, Mario Andreosi, attualmente presidente della Nave di Teseo, presso la quale pubblica Voglia di Libri, 240 pagine, 18 euro. Andreosi ripercorre qui la sua carriera e ci fa conoscere quindi 60 anni di storia dell'editoria italiana. Lo fa in maniera leggera, tutt'altro che pedante, lontana dall'autoincensamento, piuttosto ricorda momenti e figure di questo settore che ha avuto naturalmente il suo epicentro a Milano. E allora, dopo la rapida presentazione dei tre periodi principali in cui si è svolta questa avventura, dal 1959 a oggi, Andreosi ci presenta prima i ritratti degli intellettuali e scrittori che lo hanno più segnato, poi tappe e figure principali dell'editoria italiana, per chiudere con una divertente appendice sui rapporti tra editoria e sport. E allora ricostruiamo con Andreosi alcune di queste tappe. Buonasera Mario Andreosi. Buonasera. Mario Andreosi, lei in questo libro ci presenta tanti maestri che sono stati tutti grandi protagonisti, non solo dell'editoria ma in generale della letteratura, e sono stati intellettuali essi stessi, da Moravia a De Benedetti a Eco. Allora non le voglio chiedere quale o quali sia stato o siano stati più influenti su di lei, ma ci può dire se ce n'è qualcuno la cui eredità risulta oggi particolarmente attuale da riprendere, magari alla luce della situazione che stiamo attraversando? Ma io credo che per ragioni anche generazionali Umberto Eco sia quello ancora più vicino a noi, e oltretutto ci ha lasciato un'opera imponente di narrativa, di saggistica, di giornalismo. In generale la sua attività è compenetrata di un pensiero, di una proposta, di un'analisi del nostro presente e anche talvolta del futuro. Quindi è un'opera con cui avremo l'opportunità di confrontarci a lungo. A proposito di Eco, lei ricorda, la cito, come la sua attività sia stata segnata dal comune denominatore dell'ironia, un'ironia mai gratuita, accesa talvolta di necessità drammaturgica o didascalica, secondo si trattasse di amici o studenti. Però non c'era solo l'ironia in Umberto Eco, mi sbaglio? No, c'era anche una certa severità, con sfumature di ferocia, perché lui da moralista quasi involontario non gli riusciva di non stigmatizzare qualcosa su cui non fosse d'accordo, qualcosa che lui, ecco, l'indignazione, gli capitava spesso di essere indignato. E poi, e questo è un altro aspetto della sua versatilità, di sua attività multiforme, era molto professore anche, quindi non perdonava quello che poteva essere non solo un errore, o questo in ambito editoriale che raccoglieva subito un'imperfezione, ma anche così la difesa della proprietà linguistica, in generale della consapevolezza del mondo in cui vivevamo. Una delle prime protagoniste che si incontra nel suo libro è Milano che era l'America, lei la descrive così, arriva qui giovanissimo, diventa uno dei protagonisti del mondo editoriale italiano. Com'era quella Milano? Che cosa aveva di unico quella Milano nella quale lei approda negli anni 50? Alla fine degli anni 50, direi a cavallo con i 60, ma direi che la cosa che più manca forse adesso era la facilità di comunicazione, la facilità di scambio, l'opportunità di, senza rituali particolari di introduzioni, di presentazioni, di conoscere, di frequentare spontaneamente persone, gente con le quali si aveva qualcosa da dire, si trovava negli stessi posti, nei caffè, nelle osterie, per la strada anche talvolta. C'era questa disponibilità collettiva a conoscersi, a scambiare qualcosa. E oggi Milano che cosa può offrire in mancanza di quello? Non è che non possa offrire del tutto, però diciamo che per come è organizzata la nostra vita adesso, diciamo che abbiamo meno spazio per il prossimo in generale, se non per le cose essenziali. Però insomma Milano è ancora una città, direi, fra le migliori al mondo in cui vivere, perché ugualmente certi suoi caratteri sono rimasti inalterati: la voglia di lavorare, la voglia di migliorare, di procedere, e anche un senso sano di proiezione verso una leadership in alcuni campi, sia culturali sia industriali e artistici, che sono proprio di Milano. Beh, in fondo anche questa città ancora offre delle opportunità imprenditoriali importanti. Adesso non voglio fare uno spot pubblicitario per la casa editrice di cui lei è presidente che pubblica questo libro, ma appunto La nave di Teseo è un'iniziativa nel campo dell'editoria importante, è nata grazie anche all'appoggio di tanti intellettuali, tra cui lo stesso Eco, Lo e stesso che Eco, forse certo. poteva nascere solo a Milano. Lei cosa ne dice? Assolutamente d'accordo, a Milano ha trovato un immediato terreno. Non era era una sfida non facile quella di aprire una casa editrice quando tutti parlano di crisi di editoria, di gente che legge di meno e dei ragazzi che non leggono. Quindi aprire una casa editrice, questa avveniva 5 anni fa, ma io ricordo lo spirito con cui l'abbiamo avviata, se vuole, anche di disinvoltura, di senso della sfida, però sotto sotto sapevamo che era il terreno giusto su cui procedere, e grazie al cielo mi pare che in qualche modo ci siamo anche arrivati. A un certo punto lei ricorda la sua esperienza, un'esperienza importante, nel gruppo Fabbri, che a un certo punto integra anche il Rizzoli Libri sotto il controllo di Agnelli. E qui lei fa un commento abbastanza acuminato, dice: «Dagli esiti delle strategie industriali in campo editoriale del capitalismo nostrano emerge più di un dubbio sulla loro reale vocazione. I nostri imprenditori sono meno capaci di fare gli editori?» Ma i nostri imprenditori erano editori un po' per caso. Agnelli lo è diventato perché doveva riscuotere un credito non esigibile dalla Fabbri. Successivamente, quando di nuovo è passato di mano alla famiglia Romiti, anche lì era diventata editrice, perché nella liquidazione da parte della Fiat era incluso anche il Corriere della Sera e il gruppo editoriale. Quindi ognuno deve fare il suo mestiere. Diciamo che imprenditori importantissimi che hanno creato cose molto importanti, però quando si sono trovati a fare il mestiere di editore, loro malgrado, diciamo che non hanno ottenuto i risultati che era lecito aspettarsi, dato il loro curriculum e la loro statura capitalistica e industriale. Però è vero anche il contrario, perché molti degli editori che lei ricorda anche con affetto e con stima, in certi casi dimostrarono di non essere imprenditori o di saper fare meno l'imprenditore che non l'editore. E diciamo che in quel caso lì lei sta accennando alle grandi dinastie editoriali italiane che a un certo punto hanno cessato di essere tali per due ragioni. Prima di tutto, più delle volte per la mancanza di eredi, di un ricambio generazionale in grado di affrontare una mutata situazione di mercato. E poi questo coincideva anche all'inizio degli anni 70 con l'aumento del prezzo del petrolio, che aveva ridotto molto quello che era il margine di redditività dell'editoria precedente, perché è aumentato il costo della carta, eccetera. Quindi a questo, ecco, subentrata una generazione manageriale che era inevitabile che subentrasse a delle famiglie che non erano più in grado di reggere la situazione. Però a loro volta mancavano quasi sempre di una sufficiente sensibilità col nuovo prodotto di cui dovevano occuparsi. E d'altra parte, la generazione di intellettuali che lavoravano dentro le case editrici e che avrebbero teoricamente potuto rappresentare una forza di ricambio, mancavano a loro volta di educazione manageriale. Per cui manager senza sensibilità editoriale e intellettuali senza sensibilità gestionale. È stato un gioco vizioso che ha dato parecchi problemi alla storia dell'editoria italiana. E torniamo per concludere alle lamentazioni che lei ricordava sulla crisi del libro. Lei come la vede? Il libro ha un futuro? Ricorda una previsione di Eco che era ottimista a questo proposito. Sì, ecco, lapidariamente dice il libro, proprio come invenzione, è uno strumento indispensabile quanto la ruota e il cucchiaio. Lo scriveva nei suoi scritti di bibliofilia, ma è anche vero, perché abbiamo sentito annunciare la morte del libro in quanto tale di carta, quando è arrivata l'elettronica a fornirci un'alternativa peraltro utile, e che si è, anziché sostituire il libro di carta, si è integrata nel mercato aprendo una nuova fetta, e tuttora, tra l'altro, particolarmente opportuna e preziosa nel periodo del coronavirus che abbiamo visto, e con le librerie chiuse, che la vendita online aveva in parte sopperito a questa terribile carestia che si era determinata nel campo dell'editoria con la chiusura delle librerie. Grazie a Mario Andreose, autore di Voglia di Libri. Buona serata e buon anno. Grazie, buonasera. E continuiamo con i libri sui libri, con un altro titolo che ripercorre in questo caso la storia dell'editoria italiana dal 1939 al 1958 attraverso 8 titoli emblematici che diedero lustro ad altrettante collane editoriali. Si intitola Numeri 1 di Gabriele Sabatini, esperto dell'editoria italiana, editor lui stesso. Il sottotitolo è 20 anni di collane in 8 libri, Minimum Fax, l'editore, 202 pagine, 14 euro. Gli 8 libri, di cui sono anche riprodotte le copertine, sono Il deserto dei Tartari di Buzzati, Paesi tuoi di Pavese, È stato così di Natalia Ginzburg, Menzogna e sortileggio di Morante, I compagni sconosciuti di Lucentini, Quaderni proibiti di De Cespedes, Il prete bello di Parisi, Il soldato di Cassola. E Sabatini ha scelto questi titoli perché allora inaugurarono importanti collane editoriali e oggi sono ancora facilmente rintracciabili in libreria, con due eccezioni, quelle di De Cespedes e Parise. De Cespedes perché l'autrice è oggi abbastanza trascurata, mentre all'epoca ebbe un successo enorme, tanto da dare vita a lei stessa a una nuova collana. Parise perché in realtà egli non inaugurò una collana, ma stravolse lo spirito di una collana che già esisteva, nella quale appunto venne pubblicato. Quindi si parla qui di lavoro editoriale applicato ad alcuni grandi titoli del Novecento italiano, un lavoro spesso affidato e personalmente svolto da personaggi del calibro di Calvino, Garzanti, Longanesi, Mondadori, Sereni, e ne esce, come dice Hans Tuzzi nella prefazione, un arazzo, tante ogni medaglione connesso con gli altri è ricco di notizie e aneddoti. Interessanti le cronache sugli 8 libri, di cui seguiamo non solo lo sviluppo editoriale, ma anche le prime reazioni che quei titoli suscitarono presso la critica e il pubblico. Sentiamo dal libro alcune righe su Paesi tuoi, il libro di Cesare Pavese, di cui quest'anno abbiamo ricordato il 70° anniversario della morte. Il 10 maggio del 1941, negli stabilimenti della Satet di Via Bertola a Torino, le macchine tipografiche finiscono di stampare Paesi tuoi. Sul risvolto di copertina, l'autore fa mettere in risalto più che altro la collana. Con questo libro iniziamo una collezione di narratori italiani contemporanei che si propone di raccogliere, senza preconcetti di chiesuola né di piazza, romanzi di giovani, narrazioni autentiche e impegnative che valgano ciascuna come una fresca e inconfondibile esperienza. E a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo tra pochi istanti. Figli che diventano grandi, grandi scelte. Scelte che coinvolgono l'intera famiglia, come per esempio decidere in quale scuola superiore iscriversi. Ma i padri eterni vi danno una mano con gli Open Day di Radio 24. Sì, parleremo con presidi, professori ed esperti, perché in un anno complicato come questo orientarsi fra licei, tecnici e professionali non è facile in una scuola che sta cambiando volto. Un'occasione unica per noi genitori. Vi aspettiamo! Gli Open Day di Radio 24. Ogni domenica alle 11.45 con Maria Piera Ceci e i padri eterni Matteo Bussola e Federico Taddia. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Continuiamo a parlare di libri sui libri. Un interessante libro sul lavoro editoriale è quello di Valentina Notar Berardino, che lavora nella comunicazione di una casa editrice e ha pubblicato Fuori di testo, titoli, copertine, fascette e altre diavolerie, pubblicato da Ponte alle Grazie, 328 pagine, 18,50 €, che è una miniera quasi inesauribile di storie con riferimenti precisi e frequenti ad autori, titoli ed editori relative alle varie parti del libro, e quindi la copertina, il libro stesso, gli indici, le note, i risguardi, le fascette, insomma tutte le attività nelle quali si manifesta la capacità dell'editore anche di convincere la gente a comprare il libro e poi magari anche a leggerlo, con scelte che magari gli autori subiscono oppure alimentano, come dimostra per esempio la crescita abnorme che nei libri hanno avuto i ringraziamenti, prima limitati quando c'era una qualche riga e che oggi debordano per pagine e pagine. E Notar Berardino cerca di spiegarcene le ragioni. Praticare riconoscenza riduce del 23% il cortisolo, l'ormone dello stress, e abbassa del 7% i sintomi di infiammazione cardiaca. Combatte la depressione, ottimizza la qualità del sonno, aumenta l'efficienza sul lavoro e migliora le relazioni, rende più felici. Lo prova una ricerca di Robert Emmons dell'Università della California. Ringraziare fa bene alla salute. Dunque, più grazie, meno farmaci. Sembra il nuovo mantra di alcuni scrittori italiani contemporanei che si prodigano nello scrivere righe e righe di omaggi alla fine dei propri libri, accomiatandosi dal lettore quasi come fosse un atto dovuto, una prescrizione medica, in una lunga carrellata di parenti, compagni, qualche amante, amici e colleghi, quasi sempre gli editori, passati, presenti e futuri, pochi uffici stampa, meglio prima vedere se uscirà qualche articolo, cani, gatti e altri animali domestici. Ma sentiamo, a proposito di industria editoriale, accusata di essersi trasformata in industria di prodotti di massa, l'accorata constatazione di un celebre illustre intellettuale, il padre della sociologia italiana, Franco Ferrarotti, che continua a produrre pagine intelligenti alla rispettabile età di 94 anni. Un tempo, neppur troppo lontano, si diceva che allo scrittore bisognava dare un'isola, a garantirgli silenzio, solitudine, concentrazione sulla pagina. Oggi, in una società irretita nel famoso web, totalmente amministrata e sempre interconnessa, giorno e notte, e tuttavia afflitta da un senso apparentemente immotivato ma invincibile, di solitudine, sembrano destinate a prevalere la logica dell'armamento e l'emarginazione dello scrittore originale. È la legge di Grisham applicata alla letteratura. La moneta cattiva scaccia la buona. Queste sono righe tratte da uno dei suoi libri più recenti, dello scrivere e leggere non alla leggera e del tradurre senza troppo tradire. È pubblicato da Solfanelli, 90 pagine, 9 euro. Leggere, scrivere e tradurre, spiega Ferrarotti, sono tre attività mentali, lo cito, che si autoalimentano e arricchiscono, ti insegnano a viaggiare stando fermo, ti salvano dalle chiusure del sonnambulismo quotidiano. I lettori o i leggenti, come li chiama Ferrarotti, magari sì, caleranno, ma scrivere e tradurre resteranno l'arma di chi è alla costante ricerca della parola giusta. Altrettanto interessante di Franco Ferrarotti è materiale per un'autobiografia intellettuale pubblicata sempre da Solfanelli, 136 pagine, 12 euro, nel quale l'anziano maestro avvia il viaggio più difficile, quello che, scrive, a un certo punto della propria vita uno decide di intraprendere all'interno di se stesso per scoprire le ragioni profonde, le giustificazioni intellettuali delle proprie posizioni. E qui Ferrarotti parla dei suoi maestri intellettuali, dell'evoluzione del suo pensiero e, in pagine particolarmente interessanti, della lunga e proficua collaborazione con Adriano Olivetti. Abbiamo parlato dell'editoria italiana, che è una storia lunga e gloriosa, illustrata da figure eccezionali come quella dell'inventore dei libri, come l'autore Alessandro Marzomagno definisce nel titolo Aldo Manuzio, nel libro appunto che gli dedica, pubblicato dalla Terza, 208 pagine, 20 euro. Di tutti quegli elementi di cui abbiamo parlato che fanno il libro, come quelli che maneggiamo oggi, praticamente lui, Aldo Manuzio, è stato il creatore. Citando Mario Infelis, l'autore infatti ci ricorda che Aldo è davvero l'inventore della professione dell'editore moderno, colui cioè che si avvicina ai libri avendo in mente un preciso e coerente programma culturale. Manuzio ha fatto del libro il più efficiente strumento per l'accumulo e la trasmissione delle conoscenze umane degli ultimi 5 secoli. Da bravo editore, Manuzio fu anche un autentico genio, scrive l'autore, della vendita di se stesso e dei propri prodotti. Ha inventato il marketing, insomma, infatti ha utilizzato i mezzi che aveva a disposizione, in particolare le dediche e le prefazioni. Anzi, le prefazioni sono state il testo più importante che Aldo Manuzio ci ha lasciato. Ma lui inventò anche il carattere corsivo, l'indice, il formato tascabile e infine fece della sua città, Venezia, la capitale del libro. Insomma, un personaggio imprescindibile per gli appassionati di libri e per i collezionisti di Aldo, che sono tanti e famelici e se le contendono in tutti i negozi e in tutte le aste. Alessandro Marzomagno ci racconta qui la vita del grande editore, l'ambiente di Venezia, dei grandi intellettuali che ne erano clienti e lo riverivano, e dei suoi maggiori capolavori, come quello che è considerato il più bel libro mai pubblicato e anche uno dei più preziosi, cioè l'Ipnerotomachia Polifili, un libro che Manuzio curiosamente in parte snobbava, non considerandolo il proprio capolavoro, ma che nell'ultima asta in cui è comparso si è aggiudicato il prezzo rispettabile di $316,000. Ma sentiamo come si presenta appunto questo capolavoro. Xilografie e composizione sono i due fattori che trasformano il libro in un'opera d'arte. Il testo è disposto a colonna, a piramide rovesciata singola o in coppia, a coppa o in altre fantasiose forme, in grado di assicurare un effetto estetico originale e mai sperimentato in precedenza. La composizione delle pagine diventa una sorta di applicazione alla tipografia dei modelli matematici e geometrici della Divina Proporzione, che proprio in quel periodo viene definita da Luca Pacioli, il frate matematico. Le incisioni sono 172, così belle da essere state via via attribuite ad artisti del calibro di Giovanni Bellini o Andrea Mantegna. Invece oggi, gli studiosi sono quasi unanimi nel ritenerle opera del geografo e incisore padovano Benedetto Bordon. E dopo aver parlato di scrittori, editori e lettori, parliamo dell'anello intermedio, quello dei librai, ai quali è dedicato un libro a fumetti di Debbie Tung, fumettista e illustratrice inglese, Passione Libri, pubblicato dal Castoro, 138 pagine, 14 euro, tradotto da Laura Tenorini, che rappresenta con ironia e sincerità la passione di cui sono capaci i cultori dei libri. Questa passione Tang vuole trasmettere, superando magari le crisi che possono insorgere anche nei confronti dei libri o affrontando difficoltà spesso insormontabili, quale quella di riordinare la propria biblioteca. E quello dei librai è un mondo che pochi conoscono, come Romano Montroni, che da ragazzino ha cominciato a lavorare come fattorino in una libreria a Bologna per imboccare una strada che l'ha portato a essere a lungo direttore delle librerie Feltrinelli prima e poi presiedere per 6 anni il Centro per il Libro e la Lettura, oltre a tante attività, fra cui quelle nel campo della formazione. Montroni ha da poco pubblicato L'uomo che sussurrava i lettori, pubblicato da Longanesi, 208 pagine, 16 euro. E il suo libro è un bellissimo omaggio al mestiere di libraio e illustra anche l'impegno svolto appunto al Centro per il Libro e la Lettura per rafforzare la lettura nel nostro paese, che come sapete da questo punto di vista non brilla. Ma il libro di Montroni non assume i toni spesso di sussiego che assumono molto spesso coloro che si vantano di leggere, e anzi riparte da un quasi decalogo di Gianni Rodari su come insegnare a odiare i libri, per insegnare appunto a evitare certi errori. Poi Montroni ci parla dei librai, ai quali raccomanda di non darsi per vinti dinanzi allo scoramento, offrendo loro 5 chiavi per il futuro, 10 regole per l'ottimismo e queste parole finali di incoraggiamento. L'unico modo per reggere la concorrenza delle grandi librerie online è non arretrare nemmeno di un centimetro sul fronte della qualità del servizio e della piacevolezza dell'ambiente, e anzi, possibilmente, avanzare. Se non capiamo questo, se ci lasciamo andare, se troviamo più facile tirare a campare, siamo destinati a soccombere. Le librerie sono cambiate in un modo che fino a neanche solo 20 anni fa non era neppure immaginabile. Per rimanere sul mercato dobbiamo necessariamente impegnarci un centimetro dopo l'altro per essere sempre più cortesi, vivaci, attenti, informati, fantasiosi. Solo così riusciremo a offrire ai nostri clienti quell'esperienza d'acquisto memorabile di cui parlo in questo libro. Un libraio, anzi il nipote di un libraio, è il protagonista, anzi il coprotagonista del romanzo del mitico e scrittore giapponese Jap Suzuki Natsukarawa, Il gatto che voleva salvare i libri, pubblicato da Mondadori, tradotto da Bruno Forzan, 178 pagine, 18 euro. Alla morte del nonno, il giovane Rintaro ne eredita la libreria, i cui affari non vanno certo bene, proprio per la scarsa propensione a leggere che evidentemente ha colpito anche il Giappone. Lo salverà un gatto parlante che lo rianima dalla depressione, cominciando a dargli coraggio per smontare la presunzione di chi dice di leggere i libri ma si limita a raccoglierli, o chi non teme di ritagliarli, o chi li tratta soltanto come merce. La cura funzionerà e la bibliofila favola per adulti avrà un suo happy end. E a questo punto... Il confettino. Restiamo in ambito felino con un altro autore orientale, questo di Taipei, il più celebre autore di libri illustrati in Asia, cioè Jimmy Liao, che ha scritto Gatti come noi, Mi manchi, dove sei, pubblicato da Terre di Mezzo, 80 pagine, 16 euro, tradotto da Silvia Torchio. Questo è un libro dalle bellissime immagini che applicano sensibilità orientale ai retaggi dell'arte occidentale e che narra della breve fuga di una gatta che a un certo punto troveremo raggamitolata in mezzo ai libri. Poi di Tony Ross, che è un celebre illustratore e umorista inglese, Gattaccia maledetta, 36 pagine, 16 euro, pubblicato da Camelo Zampa, tradotto da Sara Saurin, dove troviamo una gatta Susi che vuole ribadire il proprio ruolo nella famiglia di cui fa parte e non arretrerà dinanzi ad alcune prepotenze fino al ricatto morale dello sciopero della fame che sortirà certamente il suo effetto. E l'americana Jamie Sherman, illustratrice e scrittrice, direttrice di una cartoleria e tipografia online chiamata Il Gatto Danzante, è autrice de La vita spiegata dal mio gatto, pubblicata dal Castoro, 14 euro, tradotto da Giusy Scarfone, con 100 lezioni essenziali apprese dai gatti per aiutarti negli alti e bassi della vita, così recita il libro. Un manuale, insomma, di self-help che divertirà grandi e piccine. Con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, e Carmelo Lauricelli, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it. Vi auguro buona serata, vi do appuntamento all'anno prossimo e molti auguri.